9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 15 di ottobre. Santa Teresa d'Avila, una grande mistica, e una grande mistica forse è quella che può guidare questo paese mentre la politica continua a dare di sé uno spettacolo leggermente, per così dire, pieno di dubbi, gravido di incertezze. Non mi meraviglia più che più del 40% degli italiani in tutti i sondaggi si dica incerto, insicuro o tendenzialmente non desideroso di andare a votare, se si dovesse andare a votare tra poco. Perché a volte è sempre più difficile capire che cosa avvenga. Prendete per esempio la giornata di ieri, Consiglio dei Ministri, varo della legge di stabilità. La legge di stabilità da quest'anno è uno dei due nuovi pilastri del nuovo regime di vigilanza che l'Unione Europea riserva a tutti i suoi paesi membri. Non si guarda più dal punto di vista dell'Europa solo ai saldi pubblici, cioè al deficit pubblico. Da quest'anno, con una nuova procedura che è figlia della crisi dell'eurodebito e che ha indotto l'Unione Europea a rafforzare i bulloni della vigilanza e i paesi membri ad accettare questo doppio binario di controllo. Il doppio binario è fatto da una parte dalla vecchia finanziaria che si presentava il 30 settembre, si chiama legge di stabilità, si presenta il 15 di ottobre ed è quella che traduce nel bilancio dell'anno successivo i saldi delle manovre pluriennali votate con la manovra estiva di luglio. E a questo primo pilastro si aggiungerà poi un secondo pilastro che non è più solo fatto sul deficit e debito pubblico, c'è anche un controllo sul debito pubblico, saremo costretti noi a rientrare del debito pubblico, ma la politica a questo momento non l'ha ancora capito. Ma il secondo pilastro sarà l'adozione di un programma annuale di riforme attraverso il quale ciascun governo di paese membro dovrà adottare i passi anno per anno coerenti al raggiungimento degli obiettivi della strategia di crescita europea, quella che è succeduta alla strategia di Lisbona, che non è stata raggiunta prima della crisi e che sarà traguardata al 2020. Questo piano nazionale di riforma si presenta entro aprile alla Commissione, la Commissione europea lo esamina, entro giugno dall'esame, dà i suoi voti, e dopodiché si adotta con la decisione di politica economica e finanziaria a luglio e poi diventa lo schema per la parte della crescita della legge di stabilità successiva. In questo doppio pilastro la lezione che avrebbe dovuto ricordare la politica italiana, siano la maggioranza, ministri, il governo, opposizione, è che se abbiamo evitato da febbraio a maggio di ballare come gli orsi nella crisi dell'eurodebito è perché abbiamo fatto pochino deficit aggiuntivo rispetto a tutti gli altri grandi paesi che invece hanno esploso il loro deficit per via della crisi. Ricordo a tutti che noi siamo sotto la linea della media dell'Unione Europea anche nel 2010 per il deficit a cui siamo. Noi siamo un poco superiori al 5% insieme alla Germania, paesi come la Gran Bretagna, paesi come l'Irlanda eccetera. L'Irlanda è al record, il 32,5% fa di deficit sul PIL quest'anno, ma comunque la Gran Bretagna resta di oltre il 10% e così via. Paesi come la Francia sono più al 7 che al 6. In tutto questo ieri invece il Consiglio dei Ministri, grandi polemiche nel governo, mezzo governo non partecipa al Consiglio dei Ministri, sapete che Berlusconi non è presente, quindi il decano è Altero Matteoli che lo presiedeva, però Maroni non c'era, Bondi non c'era, La Russa non c'era. Perché? Perché si trattava di votare appunto la legge di stabilità, in teoria i saldi già votati a metà luglio, in pratica ogni ministro dice tu mi ammazzi caro Tremonti, come se a luglio si fosse scherzato. E quindi Galan che dice che è una tragedia, tanti altri che mugugnano, vedremo che cosa succederà in Parlamento a questo punto, cioè come questa maggioranza tradurrà una legge di stabilità che in teoria è la mera conferma di quello che si è votato fino a metà luglio e che però poi quando si tratta di fare sul serio, cioè di bloccare i capitoli di bilancio, vede la maggioranza allegramente scoprirsi avere idee molto diverse intorno a questo rigore praticato a chiacchiere. Come avrete capito, io sono per difendere il rigore e dico bisogna fare crescita aggiuntiva, altro che sì, ma a patto che ciascuno ricordi che per ogni proposta per fare crescita, sulla domanda o sull'offerta, ci deve dire di quanto in più vuole tagliare il deficit rispetto a quanto Tremonti l'ha già tagliato. Questo è il punto. Chiunque non abbia coperture credibili vuole risfondare il deficit. Con più deficit non si cresce di più, si rientra nel novero dei paesi sospettati. Questo secondo me è sbagliato, ma questa è solo la premessa, perché la cosa di cui ci occupiamo e in cui ricade in pieno questa polemica, perché riguarda i fondi, è il capitolo che riguarda la riforma dell'università. Avete letto due giorni fa la Ragioneria Generale dello Stato di fronte agli emendamenti approvati in aula nell'ultimo passaggio, un passaggio lungo, travagliato, di una riforma di cui ci siamo occupati spesso, sulla quale nel suo impianto originario io davo un giudizio più che positivo. Poi protesta dei ricercatori che scambiano la loro richiesta corporativa per la difesa della ricerca nell'università, erano visibilmente alla ricerca di un terzo ruolo stabile come associati, e a questo punto il Parlamento un po' media, un po' fa, un po' qua, la ragioneria dice: su questo, questo e questo punto voi siete oltre 2 miliardi, ragazzi, non se ne parla. Il ministro Gelmini si arrabbia di brutto, Berlusconi deve intervenire per dire: non fate polemica con Tremonti. Tremonti ieri ha detto: farò il più che possibile. Sentiamo intanto alcuni commenti di esponenti delle forze politiche su questa polemica sull'università, poi sentiamo anche il ministro Tremonti. Adesso ci si dice arriveremo fra, dopo la finanziaria, fra un mese e mezzo di nuovo in Parlamento. In questo tempo che rifletta, per favore, se si vuole discutere di una riforma innovativa, noi siamo pronti con le nostre proposte, anche su un'idea su dove trovare le risorse. I tagli lineari stanno uccidendo il futuro dei nostri figli. Fare una riforma a costo zero dell'università è semplicemente impossibile. Per cui il ministro Tremonti, il Presidente del Consiglio, si assumano le loro responsabilità, spieghino al Paese che la Gelmini ha scherzato. Il Parlamento è ostaggio non dei conti di Tremonti, il Parlamento è ostaggio dei conti della Nazione, nel senso cioè che il Parlamento deve evitare di trovarsi in una situazione analoga a quella della Grecia e della Spagna, dove non facendo i conti con i conti poi si è visto che razza di catastrofe si è determinata. Allora, avete sentito nell'ordine onorevole Bersani, che ieri su Repubblica ha esposto una proposta di copertura per le risorse destinate all'università, poi avete sentito Pier Ferdinando Casini e poi l'onorevole Cicchitto. Sentiamo Tremonti. Sull'università l'impegno è assolutamente a mettere quanti più soldi possibili, quanti più fondi possibili, è un impegno che abbiamo preso ancora qua 15 giorni fa. Sull'università, sugli ammortizzatori sociali, noi abbiamo ben chiaro che, ma come sempre si fa con quel provvedimento e non con un provvedimento nuovo imposto per legge e dall'Europa come la pura secca legge di stabilità. Sarà per i 9.000 precari? Il nostro impegno è a fare il massimo possibile. Allora, ora gli ospiti che sono con noi in questa prima parte della trasmissione sono innanzitutto l'onorevole Paola Frassinetti, che è vicepresidente della Commissione Cultura della Camera ed è relatrice del provvedimento di riforma del sistema universitario, quindi ha seguito anche in particolare quegli emendamenti sui quali la censura della Ragioneria Generale dello Stato è caduta 2 giorni fa, creando questo problema e creando quindi l'ipotesi che la riforma si prenda un altro periodo, per così dire, di sospensione, quando invece i suoi tifosi, e io per primo, almeno nel suo impianto originale, volevo che i tempi fossero più rapidi. Poi abbiamo con noi in questa prima parte della trasmissione Giuseppe Valditara, che è vicepresidente vicario di Futuro e Libertà al Senato, e anche egli ha seguito molto da vicino l'iter della riforma Gelmini. Io saluto entrambi. All'onorevole Paola Frassinetti le chiedo in particolare di cominciare non solo da un giudizio complessivo della situazione che si è creata, ma in particolare gli emendamenti sui quali la Ragioneria Generale dello Stato ha detto no, uno in particolare sui ricercatori, che viene accusato di sfondare per un miliardo e otto alle casse dello Stato in termini pluriennali. Poi ci sono anche altri emendamenti minori, ma di alcune centinaia di milioni, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, non coperti, che sono quelli coi quali si incentivavano i privati a mettere mano al portafoglio e a finanziare. Un po' singolare, quindi, che anche la maniera di trovare finanza aggiuntiva oltre a quella pubblica alla Ragioneria Generale dello Stato non convinca, perché non convincono gli incentivi, quindi, come dire, noi ci rimetteremo dei soldi più che guadagnarcene. Ma in realtà il giudizio tecnico della Ragioneria Generale, Frassinetti, secondo lei era adeguato o è eccessivo? Ma, innanzitutto buongiorno, e poi volevo fare un po' di chiarezza, perché su questi emendamenti c'è stata davvero tanta confusione. Allora, questo emendamento che prevedeva il passaggio con la previsione di concorsi di 9.000 ricercatori in 6 anni è stato un emendamento come primo punto, e il secondo punto anche lo sblocco degli scatti stipendiali per i più giovani è stato presentato da me, che sono relatrice del provvedimento alla Camera, quindi intanto io ho messo la firma sotto questo emendamento e l'ho fatto ovviamente dopo avere seguito tutto l'iter della riforma che l'amico Valditara ha seguito facendo lui relatore al Senato, quindi queste istanze erano già presenti nel dibattito dibattito anche al Senato, e quindi c'era stata una volontà manifestata con ordini del giorno alla fine poi dell'iter del provvedimento approvato a fine luglio al Senato. Poi di concerto ovviamente col governo, in primis col ministro Gelmini e con parere conforme del governo, perché questo emendamento è stato approvato in Commissione Cultura alla Camera con un parere conforme del Ministero dell'Istruzione, del rappresentante del governo che era lì, a mio avviso dava un segnale importante a una legge che di per sé io condivido, che mi sembra innovativa, che mi sembra che porti la meritocrazia come principio fondamentale, che sia contro la politica degli sprechi e delle baronie universitarie e tutti questi difetti di cui abbiamo sempre parlato. Mi sembrava importante dare un segnale concreto in questa legge che risolvesse, a mio avviso, con questo emendamento quasi totalmente il problema dei ricercatori, che poi sui numeri si dice 26.000, ma quelli che avrebbero avuto i requisiti per passare i concorsi così come sono adesso le procedure, penso che sarebbero stati ampiamente soddisfatti dal passaggio di questo emendamento. Ora, il ministro Tremonti in primis, la ragioneria hanno bloccato questo emendamento. Io mi auguro che la promessa ci sarebbero dei fondi su altri provvedimenti, o la finanziaria o il milleproroghe, quindi comunque a breve, diciamo nei prossimi due mesi, per raggiungere l'obiettivo che ci avevamo prefissati con questa legge, siano veritieri, perché a me interessa la sostanza. E se Tremonti eccepisce il fatto che in una legge ordinamentale non si poteva mettere un impegno di spesa, se davvero è solo un problema tra virgolette formale, mi auguro e auspico che poi nel merito queste risorse ci siano, che si riesca a raggiungere l'obiettivo che io mi sono prefissato con questo emendamento, che altre forze politiche, in primis anche quella dell'amico Valditara che l'ha seguita al Senato, concordava con me con questa richiesta. Oh, e posso farle una domanda? L'impressione che si è avuto a un certo punto, che di fronte all'impostazione originaria, quella per la quale a tutti i ricercatori si diceva: signori, noi non possiamo assumervi tutti a tempo indeterminato, passandovi di ruolo come terza fascia associata, parole povere. Allora, la questione che vi diciamo noi è: andate avanti con altri due contratti a tempo determinato, dopodiché chi è abilitato ed entra vincendo il concorso, bene, gli altri a casa. Questa impostazione, che è quella che ha fatto esplodere l'università con i ricercatori che hanno fatto mobilitare gli studenti, io non capirò mai gli studenti, faccio anche un corso in università, glielo dico apertamente, gli studenti che solidarizzano con l'impostazione di chi vuole il posto a tempo indeterminato a prescindere dal merito, io francamente non le capisco. Però detto tutto questo, l'impressione che si è avuta a un certo punto è che, come al solito in Parlamento, chi parte con una metodologia che è quella, per la prima volta dai tempi del ministro Gui dell'università, di non dire: ragazzi, l'università è per chi ci insegna e per tutti l'ope legis, alla fine, di fronte alla pressione della piazza, alla pressione della lobby, dei professori, è costretto a capitolare. Non è una domanda mia, oggi Frassinetti, se uno apre la stampa, trova che nella doppia pagina della stampa dedicata al tema della riforma c'è per esempio un'intervista a Bravenel, il cui libro sulla meritocrazia tanto ha fatto parlare, che dice: la lobby dei professori affossa il cambiamento e la meritocrazia. Poi c'è un'intervista a Nicola D'Amico, storico dell'istruzione: capisco i precari, ma le infornate producono solo guasti. È vero o non è vero che si è creata un pochino questa sorta, adesso forza un po' la mano, no, le Frassinetti, di capitolazione, quando lei dice: io e Valditara abbiamo congegnato un provvedimento per cui quelli che erano in grado di farcela, cioè saranno 7-8 mila, non tutti 27-28 mila, dei ricercatori, ne sarebbero soddisfatti? Non è un po' il difetto di prima? Mi scusi la domanda esplicita. No, è proprio il contrario, perché noi abbiamo resistito alle richieste di Ope Legis, quella era la richiesta dei ricercatori. Infatti i ricercatori durante tutti gli incontri che abbiamo avuto, sia a livello privato, perché ovviamente sono venuti da me in qualità di relatrice, sia poi in audizione in Commissione Cultura alla Camera, sono stati ascoltati, loro ritenevano questo emendamento non giusto, cioè loro non erano soddisfatti da questo emendamento, ma volevano Ope Legis, cioè volevano sostanzialmente avere lo stato giuridico da associati e l'automatismo dell'ope legis, cosa che per l'impianto meritocratico di questo provvedimento, di questa riforma, noi non abbiamo potuto dare, proprio per essere coerenti con i nostri principi. Quindi questi 9.000, questo piano di progressione di carriera di 9.000 ricercatori non è un ope legis, perché comunque è legato a un concorso è legato a un principio di meritocrazia, ci vogliono dei requisiti particolari, non è che tutti automaticamente i ricercatori, che era quello che si voleva, passano automaticamente alla fase di associati, non è stato così assolutamente, tant'è vero che le proteste continuavano, perché anche quando si è paventata l'idea da parte del ministro Gelmini, che ha annunciato questo emendamento e quindi questa linea sia in commissione sia in conferenza stampa e nelle sue uscite pubbliche, i ricercatori non hanno smesso di protestare dicendo ci accontentiamo, hanno detto questo è un pannicello caldo, noi questa tipologia no, infatti ha ragione perché oggi più delle dichiarazioni sulla stampa, sempre dalla pagina della stampa le prendo uno, c'è un'intervista di Alessandro Ferretti, 41 anni, ricercatore di fisica all'Università di Torino, che dice non ci serve un contentino, con queste assunzioni fa credere a chi è già dentro, meglio nessuna riforma. Questa è la posizione dei guerriglieri con cui solidarizzano gli studenti dell'Università Italiana, con mia grande sorpresa. Naturalmente il mio è un punto di vista totalmente parziale. Chiedo a Giuseppe Valditara, lei ha seguito come relatore in Senato, cosa pensa a questo punto? È un giudizio più politico il suo? Alcuni esponenti di Futura Libertà hanno detto a questo punto Tremonti allora ci spieghi che abbiamo solo scherzato e che la Gelmini ha scherzato, oppure avendo a cuore il provvedimento, avendolo seguito, è dell'idea che si possa rimediare? Ma guardi, intanto buongiorno a tutti voi. Parto proprio da questa sua ultima affermazione, avendo a cuore il provvedimento. Il disegno di legge Gelmini segue e in parte, in gran parte, replica un disegno di legge presentato nel febbraio 2009 con la mia prima firma e presentato da tutto il gruppo del PDL, allora PDL. È un disegno di legge che è stato ampiamente migliorato nel passaggio in Senato con una serie di spunti anche di carattere proprio meritocratico, ma voglio citare soltanto il fatto che per la prima volta nell'ordinamento, nella storia dell'ordinamento universitario, si prevede che i consigli di amministrazione possano prendere provvedimenti disciplinari sino al licenziamento nei confronti dei dipendenti e quindi anche dei professori. Prima si passava, anzi attualmente si passa, da quel parlamentino stile CSM che è il CUN, Consiglio Universitario Nazionale. Ma al di là di questo, quindi è ovvio che c'è un profondo disappunto per questo stop al provvedimento. Vorrei anche fare una considerazione di carattere generale. Per il 2011 sono previsti 1 miliardo e 50 milioni di euro di tagli su un fondo di finanziamento ordinario di poco più di 7 miliardi di euro. Non c'è paese fra i paesi OCSE che in questi anni, anche nel pieno della crisi, abbia tagliato sulla ricerca e sull'innovazione. Ci sono stati degli sprechi nel settore dell'università e infatti dal 2010 al anno accademico 2010-2011 i corsi di laurea diminuiranno rispetto agli anni precedenti ben del 20%. Ora, il numero dei corsi di laurea con quest'ultima diminuzione è all'incirca pari a quello della Spagna, che ha quasi 20 milioni di abitanti in meno di noi. Posso però dire a chi è a casa, dal mio punto di vista, che è una diminuzione di un eccesso terrificante di corsi e discipline che avevamo avuti per la messa in cattedra di tutti col 3+2, quindi le non dico, è tagliare sulla ricerca. Anche perché poi meno stipendi a troppi dipendenti dell'università e della scuola non è tagliare sulla ricerca, questa è la truffa dei signori ricercatori. Vorrei essere chiaro. Sto dicendo che la razionalizzazione, la diminuzione dei corsi di laurea è stata da noi pienamente condivisa, perché c'erano oggettivamente, in seguito all'applicazione del 3+2, c'è stata una moltiplicazione dei corsi di laurea. Oggi comunque siamo ampiamente al di sotto come numero di corsi di laurea rispetto per esempio ad altri paesi, Francia, Germania, Gran Bretagna e più o meno a livello della Spagna. Quindi si è fatto un buon lavoro. Il numero dei professori associati e ordinari in un solo anno è diminuito di 7.000 unità su circa 60.000 tra ricercatori, professori associati e professori ordinari. Come diceva il documento del DPF del luglio 2009, la media rispetto agli studenti è inferiore, dicevo, alla media OCSE. Quindi abbiamo un numero di professori che è probabilmente inadeguato rispetto alle necessità della nostra università. Questo come premessa. Un ulteriore dato: a seguito dei tagli nel 2011 ci sarà uno sbilancio fra le necessità finanziarie per pagare gli stipendi a tutto il personale dell'università e il fondo di funzionamento ordinario di 1 miliardo 350 milioni di euro. Quindi vuol dire che se non viene reintegrato questo fondo non ci sono i soldi per pagare gli stipendi. Allora, fatte queste premesse e considerato anche che l'Italia tra investimento privato e investimento pubblico è al penultimo posto fra i paesi OCSE, questo è un dato conosciuto, ci dobbiamo chiedere se investire in ricerca e innovazione è strategico oppure se è una cosa marginale. Ci dobbiamo chiedere, per esempio, per quale motivo il governo abbia trovato 300 milioni di euro per le multe che prenderemo dalla Unione Europea per le famose quote latte e Aldisano, ho capito che la mette in politica, la sta mettendo in politica. E non trovi, e non trovo, è un dato di fatto, perché no, poi si tratta, ha ragione, ovviamente si tratta di individuare dove tagliare. Mario Baldassarri ha più volte sottolineato che negli ultimi 5 anni la spesa gli acquisti per sanità, per le spese in materia sanitaria sono aumentati del 50% in 5 anni. Allora, la devo interrompere per un momento perché noi abbiamo la pubblicità. Io le dico provocatoriamente che da questi microfoni, ma io ne sono convinto, non è che c'è Emma Marcegaglia a darmi la linea, se si tratta di ricerca, allora la copertura a le detrazioni fiscali standard pluriennali alle imprese per la ricerca e innovazione, quella sono ricerca vera. I soldi dati ai signori ricercatori dell'Università Italiana non sono ricerca vera, sono brutale in questa polemica, li generalizzo e invece dovrei distinguere, però trovo che la demagogia di chi ha per l'ennesima volta buttato polvere e cenere negli occhi degli studenti e delle famiglie, bloccando tutto, facendo le pagliacciate degli esami vestiti da operai, alla cosa eccetera, questo paese se nell'università è una buffonata produrrà buffoni e la responsabilità questa volta è di chi sta in cattedra. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, il no di Tremonti e gli emendamenti che sforavano aggiunti alla riforma Gelmini, abbiamo sentito e continuiamo a sentire perché restano collegati con noi Paola Frassinetti, la relatrice alla Camera, Giuseppe Valditara che lo è stato al Senato, oggi di Futuro e Libertà, si è collegato con noi Massimo Mario Augello che è neorettore dell'Università di Pisa e che più volte ha dichiarato in maniera molto critica nei confronti della riforma. Qual è la sua opinione, professor Augello? Meglio che da parte integralmente con la scusa che Tremonti dice troppi soldi anche così, oppure rimetterci mano, cambiarla e come? Buongiorno anzitutto, io non ho una ricetta, abbiamo assistito in quest'ultimo anno ai dibattiti che hanno accompagnato la discussione veramente negli ultimi mesi di un progetto che era stato presentato circa un anno fa, c'è una profonda insoddisfazione del sistema universitario, del mondo universitario per le conseguenze che questo decreto potrebbe portare al sistema pubblico dell'università. Seguivo con grande attenzione l'intervento del senatore Valditara che mi sembrava molto critico, ecco, e mostrava l'evidenza anche di taluni provvedimenti e per essere stato padre di questo decreto è significativo, adesso stanno venendo diversi nodi al pettine. I tagli sono stati massicci, ma c'è stata precedentemente una campagna mediatica negativa nei confronti dell'università, questo non lo possiamo negare, 2-3 anni fa, e poi sono arrivati puntualmente dei tagli che sono insopportabili per il sistema. Però secondo lei la campagna mediatica era ingiusta, era pretestuosa? Era ingiusta, pretestuosa non lo so, come sempre in questi casi si generalizza o si costruisce su dati che poi non si sono rilevati fondati. Sentivo citare per esempio il numero eccessivo dei corsi di laurea, su questo io mi riconosco, è vero, c'era stata un'eccessiva proliferazione, conseguenza del fatto che si era arrivata ad una riforma del 3+2 in un modo spesso singolare, esatto. Si era prima registrato il 3, approntato il 3 e poi si era messo mano al 2, questo aveva creato diversi squilibri. È necessario rimettere mano a questo e, come citava il senatore, con i dati c'è stata una profonda revisione del numero dei corsi di laurea e bisognerà proseguire in questa direzione. Io vedo personalmente molto bene anche l'integrazione con le altre sedi universitarie, dove talune iniziative didattiche possono anche essere gestite in collaborazione. Quindi lei è d'accordo che c'è stata una proliferazione demenziale? Indubbiamente, ognuno voleva coltivare il proprio orticello e questo si è tradotto in una proliferazione. Bene hanno fatto a individuare dei paletti, dei requisiti minimi, anche se io trovo singolare, io predico la cultura della valutazione e dell'autovalutazione, trovo singolare che poi debba essere un funzionario a dirci cosa dobbiamo tagliare, con tutto il rispetto per il lavoro dei funzionari e dei dirigenti. Quindi sono d'accordo. Questo processo è già stato avviato nelle varie università, quindi adesso si tratta di perfezionare il passaggio al nuovo modello e in tutte le sedi si va in questa direzione. Io sono segretario generale, ancora per poco, della conferenza dei presidi delle facoltà di economia e di statistica. Questo è un percorso che posso testimoniare, iniziato in tutte le università italiane, in tutte le facoltà di economia, per quello che mi riguarda. Ma le preoccupazioni, volevo dire, del mondo universitario riguardano altro. Questi tagli al finanziamento, ora l'attenzione mediatica è sulla mancata copertura di questi posti nei prossimi anni, ma il dato che ci deve preoccupare di più è il taglio dell'FFO, cioè del funzionamento degli atenei. Noi non riusciremo a pagare gli stipendi al personale, nonostante in questi anni abbiamo registrato 5-6 negli ultimi, in assenza di turnover, abbiamo registrato una diminuzione degli organici, sia di personale docente sia di personale non docente, ma sono percentuali elevate. Professore, ma le faccio una domanda. Noi abbiamo una spesa totale pubblica che è 52,5%, il 91% è spesa corrente, sono i dati del 2009. Ogni settore su cui si tenta il contenimento degli aumenti della spesa pubblica, perché di questo si tratta, dice questi sono tagli selvaggi. Allora, l'esempio Germania dice si può essere molto rigoristi, fanno deficit come noi, cioè poco, anzi hanno fatto un ulteriore giro di vita, ma non hanno fatto i tagli lineari. Hanno scelto, per esempio, che l'università, la ricerca, l'innovazione nelle imprese e nel sistema di informazione si salva e hanno dato copertura aggiuntiva, cioè non hanno tagliato come negli altri settori. Allora io le chiedo, onestamente, per come lei conosce gli aggregati della spesa pubblica italiana, lei se la sente di dire che l'enorme protesta, il blocco degli esami, quello che avviene in tutte le università italiane, non è una cosa corporativa uguale a tutti gli altri settori, comparti e lobby della spesa pubblica che quando toccati dicono noi siamo essenziali? Oppure mi dice, per l'università, che è una cosa essenziale, io non credo che i dipendenti dell'università siano la ricerca, professore. Io, per come conosco l'università e per come frequento quelle straniere rispetto a come vedo oggi uscire dalla fine del 3+2 in economia, in giurisprudenza, gli studenti, a me vengono le mani nei capelli. Ho 48 anni, ho visto la vecchia università e ho visto questo. Allora, però le faccio una domanda per dire. Lei dice, no, noi siamo giustificati nel lamentare i tagli e non bisogna farli da noi, oppure mi dice, bisognerebbe tagliare qualcos'altro, come ha detto Bersani, però credo che questo taglio di 1,5 miliardi a FSO sia sbagliatissimo. Guardi, noi insegniamo, da economisti insegniamo che nei periodi di crisi occorre investire oculatamente, è molto importante. Negli altri paesi, lo ricordava mi pare dianzi il senatore Valditara, hanno investito in ricerca e sviluppo proprio in un momento di difficoltà. Da noi non accade così da anni, ma non è questo governo solamente che si è dimostrato insensibile a queste problematiche. Quindi è già questo un dato di fatto negativo che ci mette su un piano differente rispetto agli altri paesi europei. Lei diceva sulla protesta, ecco, però bisogna fare un po' chiarezza. L'università italiana si è mantenuta nella didattica e nella ricerca per il lavoro volontario dei ricercatori, ai quali, come sa, non compete l'obbligo di svolgere didattica. Allora, il dato di partenza è questo: da 30 anni almeno, perché prima forse non c'era questa grossa esposizione, i ricercatori reggono la didattica degli atenei in modo volontario e gratuito. Quando hanno sentito di non ricevere più quell'attenzione da parte della politica, hanno detto noi questi incarichi aggiuntivi non li prendiamo. Possiamo per questo considerarli cattivi, queste categorie? E io direi di no. È una protesta corporativa, dice lei. Io non credo, perché sottolineando un aspetto che li riguarda, vogliamo ricordare la messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori, si mette ad esaurimento una categoria residuale, non si può mettere ad esaurimento una categoria che ha retto la didattica delle università, se mai i professori, naturalmente. Professore, io capisco il suo punto di vista, io la penso diversamente. In Italia c'è bisogno di una soluzione di continuità, e il suo ha un'opinione molto più autorevole della mia. Lei è un rettore, ha passato tutta la vita, ha dedicato il meglio delle proprie energie all'università italiana, e questo quindi non mi fa mancare di rispetto, e ci mancherebbe altro, professore. Dico semplicemente che questo criterio è quello che porta Vendola a sforare il patto della sanità di rientro, perché dice che c'ha 5.000 precari con le famiglie da regolarizzare. Questo è il caso che abbiamo analizzato del bando di concorso della Regione Sicilia dedicato ai 4.631 precari. Il bando di concorso è solo per loro, la famosa prova a fare la fotocopia da una parte e dall'altra. Lei dice che adesso sto mancando sicuramente di rispetto ai ricercatori dell'università italiana. No, non intendo mancare di rispetto, intendo dire che la pubblica amministrazione italiana, in ogni ordine e grado, in ogni sua branca, per decenni, dalla politica che ha sempre concepito queste modalità come ricerca di consenso da incassare sotto elezioni, sempre di volta in volta ha fatto seguire classi, modalità e tipologie di contratti eccetera eccetera, che di volta in volta naturalmente non gli si può mancare di rispetto, e di volta in volta la copertura del bilancio pubblico si allarga a dismisura. Allora, la mia netta opinione, per come io vedo in termini comparati rispetto alle università americane dove ho preso il master, l'università italiana oggi, la mia opinione è che l'impostazione iniziale di questo provvedimento, che metteva uno stop a questo tipo di impostazione che viene dagli anni in cui Gui era ministro della pubblica istruzione, cioè 30 anni fa e più, secondo me era sana, perché in Italia o facciamo discontinuità o altrimenti inerzialmente la spesa pubblica italiana è incrementale e dal 52,5% arriva al 65%, e siccome io sono anche contribuente sappiamo che cosa questo vuol dire per tenerla in equilibrio. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi ripartiamo con un po' di telefonate che sono bollenti dal pubblico. Eccoci tornati in studio, un po' di telefonate di ascoltatori, cominciamo con Nicola che chiama da Napoli. Prego Nicola. Buongiorno, senta, io voglio subito cominciare a dire che questa operazione dei 9.000 posti di associato non se ne sente alcun bisogno, è assolutamente un'operazione demagogica che sa tanto di operazione preelettorale. Abbiamo criticato Berlinguer che ha incrementato del 15% in 10 anni i docenti dicendo che era uno scandalo, adesso incrementiamo il solo ruolo di associato del 50% in 6 anni, questo secondo me è uno scandalo. Vogliamo premiare il merito? Prendiamo i ricercatori che sono attivi e aumentiamo lo stipendio, prendiamo i ricercatori che sono attivi e fanno didattica e paghiamo la didattica ai ricercatori, è sacrosanto, ma premiazioni, premio sul campo attraverso un'operazione che sa di sanatoria, siamo stufi come contribuenti e io come docente universitario. Grazie. Grazie al professor Nicola da Napoli. Quindi insomma c'è anche l'università, chi la pensa come me minoritariamente, immagino quanto travagliata la sua vita all'università. Guglielmo che ci chiama dalla provincia di Vercelli, che opinione si è fatto Guglielmo? Salve, buongiorno. Io ho un'opinione abbastanza chiara dal momento che sono un ricercatore dell'Università di Torino e sono un ricercatore indisponibile, cioè voglio dire uno di quelli che hanno deciso di non fare più didattica davanti all'ennesima occasione mancata di fare una riforma dell'università che si spreca, che è quello che sta facendo esattamente il DDL Gelmini, cioè sprecare l'occasione di fare una vera riforma dell'università. Noi ricercatori non stiamo chiedendo niente per noi, non vogliamo nessuna ope legis, non vogliamo nemmeno nessun posto di associato, vogliamo che le questioni di governance degli Atenei e le Guglielmo, questioni ma di... si sente sinceramente dopo tutto quello che si è visto da qualche mese a questa parte di dire che i ricercatori non hanno bloccato piazze, animato gli studenti eccetera eccetera perché non hanno niente da chiedere per sé, Guglielmo? Non, io non ho mai chiesto ma niente no, per me. Lei, ah no, io lei io ci credo niente, e la rispetto. Ma guardi, io dico... non solo io che sono tra i primi che ha mobilitato la facoltà di lettere a Torino, sono stato in assemblea dal mese di marzo scorso, abbiamo mobilitato tutto, abbiamo chiamato gli studenti, abbiamo montato il casino più mostruoso, certo, che si possa immaginare. Ma... volontariamente, perché questa legge è un disastro. Senta Giannini, questa legge quello che fa è mettere in mano a quelli che hanno causato i problemi dell'università, i problemi che l'università ha in questo momento sono stati causati dai rettori, mi scuso con il rettore che li presenta e con il quale concordo e sono abbastanza d'accordo con tutto quello che ha detto, i rettori e gli ordinari hanno causato tutto questo casino in cui ci troviamo immersi, la legge dà ancora più potere ai rettori e agli ordinari, mette tutto il potere di governance dell'università e di reclutamento in mano a questi signori che ci hanno portato alla situazione in cui ci troviamo. Guglielmo, io su questo le do abbastanza ragione, il passaggio parlamentare ha grazie alla lobby dei professori in Parlamento, per essere chiari, che è più temibile di quella degli avvocati per molti versi, ha peggiorato quello che lei dice. Perché all'inizio sa perfettamente che nell'impostazione originale del provvedimento c'erano meccanismi, per esempio, anche di fallimento dal punto di vista amministrativo contabile dell'università. Mi rendo conto che a molti fa sussultare, ma come l'università pubblica, come facciamo a farla fallire, eccetera, eccetera. Poi tutto questo è rientrato perché i professori si sono dati molto da fare. Quindi se questo è il punto, Guglielmo, io le posso dare anche abbastanza ragione, perché però la questione è, lei mi dice, i ricercatori non hanno chiesto niente per sé, davvero? Guardi, io sono molto vicino a un movimento spontaneo che non ha affiliati, che è la Rete 29 Aprile, sì, cioè, alla quale appartiene anche questo Alessandro Ferretti che appare oggi intervistato sulla stampa. Sulla stampa, io sì, sono perfettamente d'accordo con Alessandro Ferretti. Noi non stiamo chiedendo un problema, una soluzione al problema dei ricercatori. Io personalmente potrei continuare a fare il ricercatore a vita in un'università che mi piaccia, un'università governata democraticamente come io penso che debba essere governata. Però non è quello che la legge pone. Io ho seguito l'iter della legge sin dall'inizio, sin dal primo testo iniziale, con tutti gli emendamenti, tutte le riforme. Qualcosa Valditara ha fatto per migliorare. Il senatore Valditara ha introdotto degli emendamenti che in certi versi miglioravano la legge, anche se ovviamente per molte cose non siamo d'accordo, perché certamente io non sono un votante di questo governo, non sono del PDL. Va bene, io ringrazio molto Guglielmo, opinione netta, la posizione di Alessandro Ferretti ricordata oggi anche da Guglielmo sulla stampa, dice qui ci stiamo giocando il futuro, ci sono un sacco di posti dove si possono prendere i soldi, la TAV ad esempio, se pareva, o il ponte sullo stretto di Messina, con tutti quei soldi porti avanti l'università per 15 anni. Sentiamo ancora Rita che ci chiama da Pavia. Buongiorno. Buongiorno Rita, dica. Buongiorno, io sono quella che aveva scritto la lettera al Presidente della Repubblica l'anno scorso. Ah, che era stata anche ospite, sì, da noi, sì. Sì, sì, infatti, sono in Italia adesso con un periodo, casualmente ho sentito la sua trasmissione e quindi mi sono sentita quasi in dovere di intervenire, perché visto così in maniera meno coinvolta, mi sembra che si stia scherzando veramente con il fuoco, perché... Tornando a bomba, cioè al mio caso, io penso che una riforma non si possa fare se non si parte da un'etica, un'etica che dice che tutti quei commissari di concorso che sono stati condannati in ultimo grado perché hanno truffato, sono ancora in università. Infatti secondo me la campagna mediatica non era inventata, ecco, per ecco, così. E questo non è credibile. Tagliare i fondi alla ricerca, lo sappiamo, siamo l'unico Stato, e porterà solo danni. Però dare un ope legis di nuovo a che i ricercatori diventino associati senza una visione e supervisione di quello che è stato fatto da loro e dai loro referenti è assurdo. È un'altra volta buttare via i soldi. Sono d'accordo con Rita e grazie Rita da Pavia. Secondo me tenete conto che stiamo parlando di una persona che abbiamo ospitato e che è un po' il simbolo, no, di quello che capita al brain drain, chi va all'estero e chi poi si rimpegna tornando in Italia, e insomma ha dato un giudizio che io non trovo molto lontano e molto diverso da quello che dico io. Io sono sempre molto attento a dire che questi sono tagli alla ricerca. I tagli agli stipendi dei dipendenti della scuola e dell'università per me non sono tagli alla ricerca. Questo è una grande truffa messa in piedi dai sindacati che rappresentano i dipendenti della scuola e l'istruzione italiana, che per chi ci lavora e non per la qualità dell'offerta formativa, che non è liberamente scelta dalle famiglie in maniera competitiva e concorrenziale. Sono impostazioni diverse tra chi vuole la scuola tutta omologata, tutta pubblica e con tutti i dipendenti pubblici funzionari, e per me che invece credo in un modello formativo in cui è la competizione e la concorrenza con standard certo vigilati dall'alto per avere il denaro pubblico, ma solo nella concorrenza e quindi anche con libertà di dare soldi ai professori migliori con migliori risultati, e i migliori risultati sono più alti stipendi per gli universitari appena usciti dall'università. Questo è il metro, altrimenti stiamo parlando di chiacchiere. Però queste sono le mie opinioni personali. L'onorevole Frassinetti ha sentito quanto ampia, e lo sa perfettamente, sia la forbice di chi critica sia da una parte che dall'altra. In sintesi, alla fine, la sua parola è più di speranza oppure la pausa può essere esiziale per il provvedimento, secondo lei? Ma io voglio essere propositiva e quindi penso che non possa essere sospeso o non vedere la fine un provvedimento che, devo dire, è stato l'unico tentativo strutturale di riforma dell'università, e questo lo dicono tutti negli ultimi 30 anni, e che ha raccolto anche tanti plausi anche nel mondo dei rettori, tant'è vero che abbiamo audito in commissione la CRUI e tutti i rettori, anzi, si sono detti preoccupatissimi da questo rinvio. Non sono assolutamente d'accordo sul fatto che sia una presa in giro l'emendamento. Voglio anche precisare, non mi sembra un dato di poco conto, che l'opposizione, che non è certo molto docile su questi argomenti, anche per una questione di clima politico molto accesa, si è astenuta su questo emendamento, quindi sia il PD che l'Italia dei Valori che l'UDC si sono astenuti su questo provvedimento e non hanno votato contro, quindi non si può nemmeno banalizzarlo dicendo che uno per lei dice cose del genere. Io voglio avere dare una, così, una speranza che noi, per quanto riguarda il nostro dovere e responsabilità di parlamentari, saremo vigili affinché questo provvedimento... E naturalmente a questo punto sarà Tremonti che dovrà mettere mano al portafoglio. Vediamo trovandoli dove. Il limite aveva messo 800 milioni, ma qui lui faceva i conti quasi a 3 miliardi di sforo. Vedremo, l'impegno Tremonti l'ha dato. Io ringrazio Paola Frassinetti, ringrazio Giuseppe Valditara, vicepresidente vicario di Futuro Libertà al Senato, ringrazio il neo rettore dell'Università di Pisa Massimo Mario Gello, ringrazio tutti gli ascoltatori che abbiamo potuto mandare in onda molto meno di quelli che premevano sulla nostra linea. Avete capito che per me bisognava avere il pugno ancora più di ferro, e se avessi dei figli che scioperano per strada per dare il posto a chi ha già troppi posti in università italiana, ma diciamo che ci litigherei con mio figlio. Grazie in regia a Filippo Aureggi, grazie in redazione a Alessandro Marco Tulli, linea al giornale radio, appuntamento a lunedì.